Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. È chiaro che il mio compito qui è finito. Non voglio vedere l'India adesso. Adesso, la traversata di ritorno, fu il pensiero di Mrs. Moore. Si ricordò di tutto quello che vuol dire un matrimonio felice e dei suoi propri matrimoni felici, uno dei quali aveva generato Ronnie. Anche i genitori di Adela erano stati felicemente sposati, ed era splendido vedere la cosa ripetersi nella nuova generazione. Ancora e sempre ancora. Il numero di quelle unioni felici sarebbe certamente aumentato via via che l'istruzione si diffondeva, gli ideali diventavano più elevati e i caratteri più saldi. Ma la visita all'istituto governativo l'aveva stancata. Aveva male ai piedi. Mr. Fielding aveva camminato troppo e troppo in fretta. I due giovani le avevano dato sui nervi e le avevano fatto credere che si sarebbero lasciati. E anche se adesso tutto andava bene, lei non poteva parlare di nozze né di altro col dovuto entusiasmo. Ronnie era sistemato. Ora lei doveva andare a casa ad aiutare gli altri, se lo desideravano. Per lei non c'era più da parlare di matrimonio, sia pure infelice. Il suo compito era di aiutare gli altri, la sua ricompensa di sentirsi dire che era comprensiva. Le vecchie signore non devono aspettarsi di più. Pranzarono soli. Ebbero un simpatico e affettuoso scambio di idee sull'avvenire. Più tardi parlarono di cose del momento. Ronnie passò in rassegna e raccontò quella giornata dal suo punto di vista. Era una giornata diversa da quella delle due donne, perché mentre quelle si erano divertite o l'avevano creduto, lui aveva lavorato. Il Muharram si avvicinava e, come al solito, i musulmani di Chandrapur stavano costruendo torri di carta troppo grosse per passare sotto i rami di un certo albero. E si sapeva già il seguito. La torre urtava, un musulmano si arrampicava sull'albero a tagliare il ramo, gli indù protestavano, c'era una sommossa religiosa e Dio sa che altro, forse con l'intervento delle truppe. C'erano state deputazioni e comitati d'intesa sotto gli auspici di Tartan e tutto il lavoro normale di Chandrapur aveva subito un arresto. Bisognava che la processione seguisse un'altra strada oppure che le torri fossero più basse? I musulmani proponevano la prima soluzione, gli indù insistevano per la seconda. L'intendente aveva favorito gli indù finché non gli era venuto il sospetto che avessero artificiosamente inclinato l'albero verso terra. Dissero che si era piegato da solo, misurazioni, mappe, visita ufficiale sul posto. Ma a Ronnie quella giornata non era dispiaciuta, perché dimostrava che gli inglesi erano necessari all'India. Senza di loro uno spargimento di sangue sarebbe stato inevitabile. La sua voce si rifece compiaciuta. Lui non era lì per essere gentile, ma per mantenere la pace, e Adela, ora che aveva promesso di diventare sua moglie, avrebbe finito certamente col capirlo. Aziz cadde ammalato, una malattia da nulla, Tre giorni dopo giaceva a letto nel suo bungalow, fingendosi gravissimo. Si trattava di un attacco febbrile al quale non avrebbe dato peso se in ospedale ci fosse stato qualcosa di serio. Ogni tanto gemeva e pensava di dover morire, ma quell'idea non durava a lungo e un non nulla bastava a distrarlo. Era domenica, sempre un giorno equivoco in Oriente e un pretesto per poltrire. Dal suo sopore sentiva un suono di campane, sia dal centro amministrativo che dai missionari oltre il mattatoio. Campane diverse e fatte rintoccare con intento diverso, perché le une chiamavano fermamente l'Anglo-India, le altre debolmente il genere umano. Sulle prime non aveva niente da ridire, le altre le ignorava, conoscendone l'inefficacia. Nessun inglese ci capisce all'infuori di Mr. Fielding, pensò. Ma come faccio a rivederlo? Oh, se dovesse entrare in questa stanza, morirei di vergogna. Chiamò Hassan perché facesse pulizia, ma Hassan, occupato a assaggiare il proprio salario, battendolo sullo scalino del portico, trovò che era possibile non sentirlo. Sentì e non sentì, proprio come Aziz aveva chiamato e non aveva chiamato. Questo c'è tutta l'India, come ci somiglia, ecco come siamo. Tornò ad appisolarsi e i suoi pensieri vagabondarono sulla variegata superficie della vita. Ma gradualmente si fermarono su un certo punto. Il pozzo senza fondo, dicevano i missionari, ma lui non l'aveva mai considerato più che una piccola cavità. Sì, aveva voglia di trascorrere una serata con qualche ragazza, cantando e distraendosi nella vaga allegria che si sarebbe conclusa con la voluttà. Sì, era questo che voleva. Ma come riuscirci? Se il maggiore Callender fosse stato un indiano, si sarebbe ricordato come sono i giovanotti e gli avrebbe dato 2 o 3 giorni di permesso a Calcutta senza far domande. Ma il maggiore presumeva che i suoi dipendenti fossero di ghiaccio, o che bazzicassero i bazar di Chandrapur. Idee tutte e due disgustose. Era soltanto Mr. Fielding a... Hassan? Il servo venne di corsa. «Guarda quelle mosche, fratello!» e indicò l'orribile grappolo che pendeva dal soffitto. Il nucleo era costituito da un filo che era stato installato in omaggio all'elettricità. L'elettricità non se n'era data per inteso e al suo posto era venuta una colonia di moscerini che annerivano coi loro corpi il filo ritorto. «Signore, quelle sono mosche.» «Bravissimo, sono mosche, d'accordo. Ma perché ti ho chiamato?» «Per mandarle via», disse Hassan dopo una penosa meditazione. «Se le mandi via, tornano.» «Devi prendere qualche provvedimento contro le mosche. Sei il mio servo per questo», disse gentilmente Aziz. Hassan avrebbe mandato il ragazzo a farsi prestare la scala in casa di Mahmoud Ali. Avrebbe detto al cuoco di accendere il primus e di scaldare un po' d'acqua, sarebbe personalmente salito sulla scala con un secchio tra le braccia e vi avrebbe immerso l'estremità del filo. «Bene, benissimo. Ora, che cosa devi fare?» «Ammazzare mosche.» «Bene, fallo.» Hassan si allontanò, con quel programma quasi impiantato in testa, e si mise a cercare il ragazzo. Non trovandolo, il suo passo si fece via via più lento e lui tornò di soppiatto sotto il portico, ma senza più battere le sue rupie a scanso che il padrone le sentisse tintinnare. Le campane domenicali dindonavano a perdifiato. L'Oriente era tornato all'Oriente, passando per i sobborghi inglesi, e durante quella deviazione era diventato ridicolo. Aziz continuava a fantasticare sulle belle donne. In questo le sue idee erano aspre e schiette, ma non brutali. Aveva imparato tutto quello che doveva sapere sul proprio fisico molti anni prima, grazie all'ambiente sociale in cui era nato. E quando si era messo a studiare medicina, aveva provato un senso di ripugnanza per la trafelata pedanteria con cui l'Europa classifica i fatti del sesso. La scienza pareva affrontare tutto dal verso sbagliato. Un manuale tedesco in cui si era imbattuto non lo aiutò a interpretare le proprie esperienze, perché chiuse là dentro non erano più le sue esperienze. Quello che aveva saputo dal padre e dalla madre, o che aveva spigolato dai servi, ecco le notizie che trovava utili e che alla prima occasione passava ad altri. Ma non doveva recare pregiudizio ai propri figli con qualche stupida scappatella. Guai se si spargeva la voce che non era rispettabile. E bisognava anche tener conto della sua posizione professionale, che ne pensasse il maggiore Callender. Aziz rispettava le convenienze, ma non le circondava di una aureola morale, e in questo soprattutto si distingueva da un inglese. Le sue convenzioni erano di natura sociale. Ingannare la società non è un male, finché lei non vi scopre, perché solo quando vi scopre l'avete danneggiata. Essa non è come un amico o come Dio, che vengono offesi dalla pura e semplice esistenza della slealtà. Venuto perfettamente in chiaro su questo punto, si domandò che specie di bugia dovesse dire per andare a Calcutta, e aveva già trovato a chi poteva fiduciosamente affidare l'incarico di mandargli di là un telegramma e una lettera da far vedere al maggiore Callender, quando si udì un frastuono di ruote sulla sua proprietà. Qualcuno che veniva a prendere sue notizie. Quel pensiero gentile gli fece salire la febbre e con un sincero gemito egli si avvolse nella trapunta. «Aziz, carissimo, siamo molto preoccupati», disse la voce di Hamidullah. Uno, due, tre, quattro sobbalzi, via via che quelli, si sedevano sul letto. «Quando si ammala un medico è un affar serio», disse la voce del signor Sayed Mohammed, l'assistente ingegnere. «Quando si ammala un ingegnere è importante allo stesso modo», disse la voce del signor Hack, un ispettore di polizia. «Oh sì, siamo tutti importantissimi, lo dimostrano i nostri stipendi». Giovedì pomeriggio il dottor Aziz ha preso il tè col nostro direttore, flautò Rafi, nipote dell'ingegnere. C'era anche il professor Godbole e si è ammalato pure lui, cosa che sembra un po' strana, signore, non vi pare? Fiamme di dubbio balzarono nel petto di ciascuno. Sciocchezze, esclamò Hamidullah con accento autorevole che valse ad estinguerle. Sciocchezze, ma certo, ripeterono gli altri, vergognandosi di se stessi. Aziz alzò la mano col palmo in alto. I suoi occhi cominciarono a splendere, il suo cuore a riempirsi di tenerezza. Emergendo ancora un poco dalla trapunta, recitò una poesia di Ghalib. Non aveva nessun rapporto con quello che era avvenuto fin lì, ma scorgava dal suo cuore e parlava ai loro. Furono tutti commossi da quel patetico. Erano tutti d'accordo che il patetico è la più alta qualità dell'arte. Una poesia dovrebbe suscitare in chi ascolta il senso della sua debolezza e stabilire non si sa quale paragone tra gli uomini e i fiori. La squallida camera da letto divenne tranquilla. Gli sciocchi intrighi, i pettegolezzi, il futile scontento si placarono, mentre parole date per immortali riempivano l'aria indifferente. Non come un grido di battaglia, ma come una calma sicurezza, sopravvenne il sentimento che l'India era una, l'Islam, e sempre lo era stata, una sicurezza che durava fino a quando non guardavano fuori della porta. Qualunque cosa avesse provato Ghalib, aveva comunque vissuto in India, e questo la rendeva più concreta ai loro occhi. Lui se n'era andato coi suoi tulipani e le sue rose, ma i tulipani e le rose non se ne vanno. E i regni fraterni del nord, Arabia, Persia, Turkmenistan, protendevano le loro mani mentre lui cantava, tristemente, perché tutta la bellezza è triste. E salutavano la ridicola Chandrapur, dove ogni strada e ogni casa era divisa contro se stessa, e le dicevano che era un continente e una unità. Del gruppo, soltanto Hamidullah si intendeva un poco di poesia. Gli altri erano di testa inferiore e più grossolana. Tuttavia, ascoltavano con piacere, perché la letteratura non aveva divorziato dalla loro civiltà. L'ispettore di polizia, per esempio, non aveva l'impressione che Aziz si fosse diminuito recitando versi, né proruppe nella fragorosa risata con cui l'inglese allontana da sé il contagio della bellezza. Se ne stava seduto con la mente vuota, e quando i suoi pensieri, quasi tutti ignobili, tornarono ad affluirvi, avevano una piacevole freschezza. La poesia non aveva fatto bene a nessuno, ma era un transitorio memento, un alito delle divine labbra della bellezza, un usignolo tra due mondi di polvere. Meno esplicita che l'invocazione a Krishna, esprimeva tuttavia la nostra solitudine, il nostro isolamento, il nostro bisogno dell'amico che non viene mai e ciò nonostante non è del tutto fedifrago. Lasciò Aziz a meditare ancora sulle donne, ma in modo diverso, meno concreto, più intenso. Talvolta la poesia aveva su di lui questo effetto, talvolta invece non accentuava che i suoi desideri particolari, e lui non sapeva mai in anticipo se aspettarsi l'uno o l'altro effetto. Non riusciva mai a scoprire una regola nella vita, né per questo, né per nessuna altra cosa. Hamidullah si era fermato da Aziz mentre stava recandosi a un noioso comitato di notabili di tendenze nazionaliste, dove indù, musulmani, due sikh, due parsi, un jain e un cristiano indigeno cercavano di piacersi a vicenda più di quanto a loro riuscisse naturale. Chinandosi disse: «Aziz, Aziz, ragazzo mio, noi dobbiamo andare, siamo già in ritardo. Guarisci presto, perché non so proprio cosa farebbe senza di te il nostro gruppo di amici». «Non dimenticherò queste affettuose parole», rispose Aziz. «Aggiungeteci le mie», disse l'ingegnere. «Grazie, signor Sayed Mohammed, lo farò». «E le mie, e gradite le mie, signore», esclamarono gli altri, tratto ciascuno alla benevolenza nella misura in cui ne era capace. Piccole, inutili, inestinguibili fiamme. E la compagnia continuò a star seduta sul letto e a masticare canna da zucchero che Hassan era corso a comprare nel bazar, e Aziz bevve una tazza di latte alle spezie. D'improvviso si udì il rumore di un'altra carrozza. Era il dottor Pannalal, portato dall'orribile signor Ramchand. Si ristabilì subito l'atmosfera di una camera di ammalato e l'infermo si ritirò sotto la trapunta. «Vogliate scusarmi, signori? Sono venuto a prendere notizie per ordine del maggiore Callendar», disse l'indù, innervosito da quel covo di fanatici nel quale la sua curiosità l'aveva spinto. «Eccolo qui nel suo letto», disse Hamidullah, indicando la forma giacente. «Dottor Aziz, sono venuto a prendere notizie». Aziz presentò al termometro una faccia inespressiva. «Anche il polso, prego». Lo prese, fissò le mosche sul soffitto e finalmente annunciò: «Un po' di temperatura». «Non molta, credo», disse Ramchand, smanioso di fomentare guai. «Un po', deve restare a letto», ripeté il dottor Pannalal, e abbassò il termometro così che il suo grado rimase sconosciuto per sempre. Detestava il giovane collega e avrebbe avuto voglia di giocargli un brutto tiro e riferire al maggiore Callendar che era un simulatore, ma presto poteva aver bisogno anche lui di restare un giorno a letto, e d'altronde il maggiore Callendar, per quanto sempre disposto a credere il peggio sugli indiani, quando dicevano male l'uno dell'altro, non prestava mai fede. L'amicizia sembrava il partito più sicuro. «Come va lo stomaco?» domandò. «E la testa?» E scorgendo la tazza vuota, prescrisse una dieta lattea. In mezzo a quel trambusto, qualcuno disse: «Ma insomma, è malato o no?» Mr. Fielding era sopraggiunto inosservato. Tutti si alzarono e Hassan, per fare onore a un inglese, colpì il grappolo di mosche con una canna da zucchero. Aziz disse freddamente: «Accomodatevi». «Ah, che stanza, che combriccola, squallore e parolacce, il pavimento disseminato di briciole di canna e di noci e macchiato di inchiostro, i quadri peristorto sulle pareti sudice. Non aveva mai inteso di vivere in quel modo, né tra quella gente di terz'ordine. Mr. Fielding è stato molto buono a degnarsi di visitare il nostro amico», disse l'ispettore di polizia. «Siamo commossi di questa grande cortesia». «Non parlategli in questo modo, non ne ha bisogno. E non ha bisogno di tre sedie, non è mica tre inglesi», proruppe Aziz. «Ebbene, Aziz, siete malato o no?» ripeté Fielding. «Immagino che il maggiore Callendar vi avrà detto che faccio per finta», rispose Aziz. «Beh, fate per finta?» E tutti risero, benevoli e soddisfatti. «Un inglese al 100% delle sue qualità», pensarono, «così cordiale». «Domandatelo al dottor Pannalal», disse Aziz. «Siete sicuro che se mi fermo non vi stanco?» «Ma no, di certo. Ci sono già altre sei persone in questa camera così piccola. Restate comodo, vi prego, e scuserete se non faccio cerimonie». E si girò dall'altra parte. «È malato e non lo è», disse Hamidullah, offrendo a Fielding una sigaretta. «E ho l'idea che siamo quasi tutti nella stessa condizione». Fielding ne convenne. Andava d'accordo con quell'avvocato così simpatico e sensibile. Erano abbastanza in confidenza e cominciavano a fidarsi l'uno dell'altro. «Tutto il mondo pare che stia per morire, ma dato che non muore, dobbiamo presumere che esista una benefica provvidenza». «Oh, è vero, è proprio vero», disse il poliziotto, pensando che così si onorasse la religione. «Mr. Fielding, pensa che sia vero?» «Vero che cosa?» «Il mondo non sta morendo, di questo sono sicuro». «No, no, che esista la provvidenza». «Io non credo nella provvidenza», disse Fielding. «Ma allora come fate a credere in Dio?» domandò Sayed Mohammed. «Io non credo in Dio». Un lieve movimento, una specie di «ve l'avevo detto», percorse il gruppo e Aziz sollevò un attimo gli occhi, scandalizzato. «È vero che adesso in Inghilterra la maggioranza è atea?» domandò Hamidullah. «La gente evoluta e istruita?» «Direi di sì», rispose Fielding, «quantunque non gradiscano quel nome. La verità è che di questi tempi l'Occidente non si cura molto di credere o non credere. La cosa destava più scalpore 50 anni fa, o anche quando voi ed io eravamo giovani». «E non decade anche la moralità?» riprese Hamidullah. «Dipende da quello che chiamate...» «Sì, sì, la moralità decade, immagino». «Scusate la domanda, Mr. Fielding, ma se le cose stanno così, quale giustificazione ha l'Inghilterra di occupare l'India?» «Ci erano arrivati, da capo con la politica». «Non ho fantasia di pormi questa domanda», rispose Fielding. «Personalmente io sono qui perché avevo bisogno di un posto. Non so dirvi perché l'Inghilterra sia qui, né se dovrebbe esserci. Non sono da tanto». «Anche indiani di grandi capacità hanno bisogno di un posto nel campo dell'insegnamento». «Lo immagino. Ma io l'ho preso prima», disse Fielding sorridendo. «Vogliate scusarmi ancora», proseguì Hamidullah. «È giusto che un inglese occupi un posto quando ci sono indiani disponibili? Naturalmente non alludo a nulla di personale. Personalmente siamo felici che voi siate qui. E questa franca conversazione ci è di grande profitto». «C'è una sola risposta a un discorso di questo genere. L'Inghilterra occupa l'India per il suo bene». Ma Fielding non si sentiva disposto a darla. La mania della sincerità l'aveva divorato e disse: «Anch'io sono felice di essere qui. Ecco la mia risposta e questa è la mia unica scusa. Quanto alla giustizia, non posso dirvi nulla. Può darsi che non sia giusto che io sia nato. Non rubo l'aria di qualcun altro tutte le volte che respiro. Però sono contento che sia successo. E sono contento di essere qui. Per quanto un uomo sia furfante, se con ciò è felice, questa, in un certo senso, è la sua giustificazione. Gli indiani erano perplessi. Non che gli fosse estraneo quel modo di ragionare, ma le parole erano troppo nette e nude. Se una frase, sia pure di sfuggita, non faceva qualche salamelecco alla giustizia e alla moralità, la sua grammatica feriva le loro orecchie e paralizzava i loro cervelli. Ben di rado, se non c'entrava l'affetto, quello che dicevano coincideva con quello che sentivano. Avevano molte convenzioni mentali e quando le vedevano derise trovavano difficile entrare nel gioco. Hamidullah resse meglio degli altri. E quegli inglesi che non sono contenti di essere in India non hanno nessuna scusa, disse. Ah, nessuna? Buttateli fuori. Può essere difficile separarli dagli altri, disse Hamidullah ridendo. Peggio che difficile, sbagliato, disse il signor Ramchand. Nessun gentiluomo indiano considera corretto buttar fuori la gente. In questo siamo differenti da tutti quegli altri popoli. Siamo così spirituali. Oh, è vero, è proprio vero, disse l'ispettore di polizia. È vero, Mr. Huck? Io non credo che siamo spirituali. Non sappiamo coordinare, ecco tutto. Non sappiamo coordinare, non sappiamo mantenere gli impegni, non sappiamo arrivare ai treni. Cos'altro è la cosiddetta spiritualità dell'India? Voi ed io dovremmo essere al comitato dei notabili e non ci siamo. Il nostro amico, il dottor Lal, dovrebbe essere coi suoi pazienti e non c'è. E così tiriamo avanti. E così continueremo a tirare avanti, credo, sino alla fine del tempo. Non è la fine del tempo, sono appena 10:30, esclamò il dottor Pannalal, che era di nuovo di umore spavaldo. Signori, se mi è concesso di dire qualche parola, che conversazione interessante. E così pure la nostra riconoscenza e gratitudine al signor Fielding, in primo luogo, insegna ai nostri figli e offre loro tutti i grandi benefici della sua esperienza e discernimento. Dottor Lal? Dottor Aziz? State seduto sulla mia gamba. Oh, scusate tanto, ma si potrebbe dire che la vostra gamba scalcia. Venite, su, venite. In ogni caso stanchiamo il malato, disse Fielding. E uscirono tutti in fila. 4 musulmani, 2 indù e l'inglese. Mentre venivano chiamate le vetture dalle loro varie chiazze d'ombra, essi attesero nel portico. Aziz vi tiene in grande considerazione. Non ha parlato solo perché non sta bene, disse Hamidullah. Oh, capisco benissimo, replicò Fielding, che era piuttosto deluso di quella visita. Certo, gli venne in mente che al circolo avrebbero commentato «Mr. Fielding si svaluta, come al solito». Non riusciva nemmeno a farsi condurre il suo cavallo. Al primo incontro aveva provato una così viva simpatia per Aziz e aveva tanto sperato che la cosa andasse avanti. Sandro Lombardi ha letto «Passaggio in India» di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.